Ciao a tutti, ciao a tutte, siamo Domizia e Claire e abbiamo preparato un piccolo quadro generale sintetico sulla situazione delle donne in Francia e sulla violenza fatta alle donne. Le cose sono talmente tante da dire che abbiamo pensato di dividere in tre parti il nostro piccolo intervento. La prima parte è un po' sul dibattito in corso legato al 25 novembre e alle proposte del governo attuale. La seconda parte è un po' sulla legislazione, sulle violenze, l'aborto e anche sugli accessi ai diritti. E l'ultima parte sui movimenti femministi plurali. Il dibattito proprio in questi giorni è principalmente su cinque cose. La PMA, la procreazione medicalmente assistita per le coppie lesbiche, che ora è possibile soltanto per le coppie eterosessuali. Allora che nella legge per il matrimonio gay proposta durante il governo Hollande all'origine c'era anche la PMA per le coppie lesbiche che non fu approvata. Pochi giorni fa il presidente attuale ha convocato varie associazioni femministe, istituzionali o meno, ed ha affermato che la priorità per questo governo non era di legalizzare la PMA per le coppie lesbiche e quindi tutte le associazioni lesbiche se ne sono andate via per protesta prima della fine dell'incontro. Un dibattito attualissimo e molto doloroso sono l'aumento delle aggressioni alle lesbiche e gay da quando il matrimonio gay è stato legalizzato e i movimenti omofobi e lesbofobi cattolici reazionari si sono usciti fuori grandiosamente, e le aggressioni, l'aumento delle aggressioni alle donne velate col velo e non agli uomini barbuti da quando ci sono stati gli attentati in Francia. Una delle proposte di legge di questo governo è sull'affidamento alternato imposto, dibattito che è fomentato da anni qui dal movimento maschilista, dai vari movimenti maschilisti, ma che non ha ragione proprio di esserci perché in Francia soltanto il 18% dei padri chiedono l'affidamento alternato e il 17% lo ottengono. Qui, allora che sappiamo perfettamente le conseguenze che possono avere, che può avere un affidamento alternato in caso di violenza domestica sulle donne e sui bambini e anche sulla diminuzione degli aiuti sociali in caso di questo tipo di affidamento. E in più nella proposta di legge sarà scritto nero su bianco, cosa che già si fa, ma sarà scritto nero su bianco che si potrà fare ricorso alle forze dell'ordine in caso di rifiuto di rendere il bambino o la bambina al padre. Altra proposta di legge è la diminuzione del 25% delle pensioni di reversione che tocca soprattutto le donne quando perdono il marito. E ultimamente varie associazioni hanno richiesto la revisione della legge sulla prostituzione, che aveva all'epoca depenalizzato l'adescamento, penalizzato il cliente e il governo all'epoca aveva promesso 30 milioni per il percorso per le associazioni che seguono le persone prostituite per mettere in piedi un percorso, un dispositivo dove le persone prostituite potevano intraprendere un percorso di uscita dalla prostituzione. Le persone che lo richiedevano, ovviamente. Allora, le associazioni hanno avuto soltanto 6 milioni e oggi in Francia ci sono soltanto 115 persone che sono entrate in questo dispositivo. In ogni caso, fra 2-3 mesi il Consiglio dei Saggi, che è un'istituzione giuridica francese che permette di rivedere le leggi che sono state già approvate, si unirà per rivedere questa legge. Basandosi sulla ragione della libertà di intraprendere. Potremmo fare una trasmissione intera su questa tematica. Insomma, per concludere questa prima parte, il governo, come al solito, fa tanti annunci e poi non li mette in pratica, fa annunci sulla riduzione della violenza, la prevenzione della violenza, sulla violenza fatta al lavoro, sulla legalità dei salari delle donne, sulla prevenzione dei comportamenti sessisti, così si chiama bullismo qua, prevenzione dei comportamenti sessisti nelle scuole, l'educazione sessuale, ma i soldi non ci stanno. Ci stanno un sacco di donne che lavorano in questo campo, che hanno una marea di esperienze e di pratiche, ma i soldi non ci stanno e invece di aumentare diminuiscono. Per quanto riguarda la legislazione sulla violenza, l'aborto e sulla violenza, l'1% degli stupratori non sono condannati in Francia, cioè soltanto l'1% degli stupratori sono condannati, quindi siamo tutti un po' uguali. Nel 2010 fu fatta una grande legge sulle violenze di genere, quando c'era ancora un ministro dei diritti delle donne e non un segretariato di Stato all'uguaglianza tra uomini e donne come oggi. Tra le tante cose che erano incluse in questa legge, ne cito soltanto tre: l'ordinanza di protezione, che è una procedura civile e non penale, che dovrebbe permettere alle donne vittime di violenza domestica in pericolo di vita di proteggersi molto più rapidamente, di chiedere protezione giuridica molto più rapidamente che attraverso i processi giuridici normali, e in più senza essere obbligate di esporre denuncia. Nella realtà non si accede a una protezione attraverso questa procedura senza aver esposto denuncia. Due cose che importanti di questa legge erano l'obbligo del corpo medicale e dei giudici, dei magistrati e degli avvocati, dei poliziotti e delle poliziotte di formarsi per diagnosticare una violenza e sapere accogliere una donna vittima di violenza. Fatto sta che questi non ci sono mai stati finanziamenti per fare queste formazioni e la volontà di questi professionisti neanche. Quindi non ci sono referenti nei commissariati. E le donne sono accolte in modo pessimo nei commissariati, spesso le denunce non sono accettate, i poliziotti si prendono per i procuratori, per i giudici e decidono loro, e in più se sei straniera, immigrata e con il velo, allora lì sei ancora, cioè una doppia oppressione che subisci. Nei tribunali è uguale, il trattamento è pessimo, c'è sempre una culpabilizzazione delle donne e la proprietà privata vale molto di più del corpo di una donna. Vorrei fare solo qualche esempio di processi che ci sono stati ultimamente, negli ultimi anni, in cui gli stupratori sono stati scagionati. Stupratori che avevano dai 20 ai 50 anni, che hanno stuprato bambine dagli 11 ai 14 anni e che sono stati scagionati perché i giudici hanno affermato che le ragazzine bambine erano consenzienti, che avevano consentito. Questo ha aperto un dibattito che è molto seguito in questo momento sull'età minima del consenso, cioè che l'idea di fare una legge che al di sotto dei 18 anni, a prescindere da quello che è successo, una donna, bambina, ragazza non è consenziente. E in più rimette in discussione la legge attuale sullo stupro, dove il consenso non è proprio preso in conto. A livello dei finanziamenti che sono dati alle associazioni istituzionali che lottano e lavorano con le donne vittime di violenza domestica, violenza sessuale, matrimoni forzati, mutilazioni sessuali. I finanziamenti stanno diminuendo a livello proprio catastrofico, creando una competizione tra le associazioni per accaparrarsi gli ultimi finanziamenti e degradare le condizioni di lavoro delle operatrici che stanno sempre più in burnout, assenteismo, eccetera, eccetera. In più, queste associazioni che sono originariamente femministe lo sono sempre di meno e ovviamente si ripercuote sull'accoglienza delle donne vittime di violenza. Per quanto riguarda l'aborto e la contraccezione, la legge sembra accettabile, ma poi in realtà non è applicata come si dovrebbe. L'aborto farmacologico è possibile farlo anche nei consultori, l'aborto per aspirazione fino a 2 mesi anche, la pillola d'urgenza, quindi la pillola del giorno dopo, si può ottenere nelle farmacie senza impegnativa anche quando si è minori, però l'accesso resta ridotto, dipende dove si sta. Se stai a Parigi, ok, è accessibile, ma se stai in una zona rurale o in una città più piccola, l'accesso cambia totalmente. In più, gli ospedali e la sanità pubblica anche sta degradando come dappertutto. Questi ospedali imprese diventano delle imprese con manager che li gestiscono e che inglobano tutti i piccoli ospedali, i piccoli dispensari, i centri di pianificazione familiare, che sono i nostri consultori, le maternità semi-private che erano convenzionate, che erano più a forma di donna, stanno essendo inglobate da queste imprese ospedali. Che ovviamente con conseguenza del degrado del servizio pubblico, delle condizioni di lavoro e dell'accesso all'aborto. L'altra sera ascoltavo un'emissione in cui raccontavano che c'è un aumento enorme di parti fatti in macchina, di donne che partoriscono in macchina perché l'ospedale ormai è diventato così lontano che le donne non riescono neanche arrivare fino all'ospedale per partorire. In più, cosa nuova per la Francia, perché 15 anni fa era impensabile, o comunque c'erano il 0,0 non so che per cento di obiettori di coscienza, e invece in questo momento c'è un grande aumento di obiettori di coscienza, cosa che rende l'accesso all'aborto sempre più difficile. Riguardo alla legge del velo, è una legge che dagli anni 90 che c'è, ma che sta peggiorando sempre di più. Addirittura la Comunità Europea ha denunciato la Francia per questa legge perché ostacola le donne con il velo proprio nella loro vita quotidiana, dall'accesso per le studentesse all'accesso alla scuola di base universitaria e centri di formazione professionale, e per le lavoratrici a dei mestieri e dei lavori che siano decentemente salariati, remunerati. Le lavoratrici col velo, se hai il velo puoi fare le pulizie, lì non c'è problema, ma se vuoi accedere a un lavoro con un salario migliore e condizioni migliori è problematico. Le donne trovano strategie, si levano il velo oppure si mettono un berretto, la bandana, oppure non ci vanno né a lavorare né a studiare. Passiamo alla ultima parte di questo piccolo intervento sui movimenti, sulla pluralità dei movimenti femministi in Francia. Una cosa molto positiva è che c'è un nuovo separatismo qui in Francia, che è il separatismo delle compagne nere, che non è come negli Stati Uniti, che è da tanto, qui è proprio nuovo. E questo separatismo delle compagne nere permette un'elaborazione e una produzione di analisi, riflessioni, idee anticoloniali molto importante. E purtroppo questo separatismo è attaccato da tutte le parti, sinistra e destra, soprattutto da una sinistra ben pensante che si rifà all'universalismo francese, dicendo che siamo tutti uguali, che loro sono escludenti, che sono razziste antibianco. E, beh, lo sappiamo benissimo che l'universalismo è un uomo bianco, di classe media, eterosessuale. Comunque le compagne resistono, continuano a vedersi. Ci sono stati due incontri nazionali che sono stati rifiutati, interdetti, proibiti, però loro continuano, resistono e continuano a produrre e a vedersi separatamente. Poi ci sono associazioni di femministe musulmane, associazioni istituzionali contro le violenze che ho citato prima. Il movimento LGTBQAI e più, le associazioni lesbiche, le associazioni lesbiche di rifugiate politiche perché lesbiche nei loro paesi. E tutto però, cioè è veramente molto vario il movimento femminista francese, ma è completamente spezzettato, soprattutto dopo che c'è stato il dibattito sulla prostituzione, sul velo ed ora anche con il movimento queer. Vorrei soffermarmi 2 minuti proprio sulla divisione riguardo al velo, perché è molto doloroso. C'è una divisione sul velo già tra le donne originarie delle ex colonie francesi, perché c'è tutta una parte di, per esempio, algerine che sono scappate dall'Algeria quando c'era il FIS, il Fronte Islamico di Salvezza, che sono fuggite in Francia, ma che erano di una classe medio-alta, femministe, spesso atee, e che si sono unite al movimento femminista francese. Invece oggi ci sta tutto un movimento di giovani e meno giovani femministe musulmane che porta il velo e che porta il velo per rivendicare la loro cultura, la loro religione di fronte a uno Stato che non l'ha mai riconosciuta come francese, non l'ha mai accettata come francese dopo 4, 3, 4 generazioni che stanno qui. E quindi è una rivendicazione molto forte e c'è una divisione tra queste tra le varie generazioni. Questo si ripercuote anche nel movimento femminista e un esempio eclatante è, per esempio, nei consultori, nei centri di pianificazione familiare, molte operatrici si rifiutano di ricevere le donne velate perché il velo è un simbolo troppo violento per loro, che rappresenta il patriarcato, eccetera. Soltanto che non vedono più la donna che sta sotto il velo e che viene lì per prendere la contraccezione, abortire e parlare di violenza. Addirittura in una delle due case delle donne che stanno a Parigi, che sono comunque tutte di origine femminista, e dove si lavora sulle violenze, eccetera, ultimamente le operatrici di questa casa delle donne chiede alle donne velate di levarsi il velo. Allora, le donne vanno lì per chiedere aiuto, per essere accompagnate nel loro percorso per uscire dalle violenze e si ritrovano violentate da delle francesi bianche che gli dicono di levarsi il velo. Quindi ecco, questa è una delle divisioni veramente dure del movimento. Per dirvi, ci sono due 8 marzi da circa 8 anni a Parigi, uno il pomeriggio e uno la sera. Vabbè, concludo con due cose positive, che sono due esempi di quando tutta questa frammentazione di movimenti, di associazioni e collettivi riescono ad unirsi. Uno è l'esempio della storia di Jacqueline Sauvage nel 2016, una donna che ha ammazzato il suo marito sparandogli alle spalle dopo 45 anni di violenza su di lei e sulle figlie e che è stata condannata all'ergastolo. Dopo questa condanna ci fu un gruppo di donne ex vittime di violenza che iniziò a fare una petizione via le reti sociali e poi per una mobilizzazione molto forte anche per strada, a cui ci unimmo tutte. E questa mobilitazione fu talmente forte che Hollande, il presidente dell'epoca, graziò Jacqueline Sauvage, che oggi è libera per fortuna, è stata scarcerata. Un altro esempio è il movimento MeToo, che qui ha avuto molta adesione, veramente molta adesione, e che si è chiamato Balance ton porc, che vuol dire denuncia il tuo porco, però in balance c'è pure qualcosa di un po' di fare la spia, fai la spia sul tuo porco, e che ha fatto molto dibattito, soprattutto della sempre sta sinistra ben pensante, che legalista, che ha iniziato a dire ah, ma bisogna, riveniamo alla delazione, bisogna passare per le procedure giuridiche, per il commissariato, eccetera, eccetera, dimostrando di essere ben lontana dalla realtà del territorio, del terreno, e le donne gli hanno risposto: non siamo protette né nello spazio pubblico, né nei tribunali, né nei commissariati. Noi il nostro porco lo balanziamo, cioè lo denunciamo. E quindi dalle reti sociali questo movimento si è spostato in assemblee enormi in varie città della Francia. A Parigi siamo state a delle assemblee dove c'erano 400-500 donne di tutti i tipi. E questo movimento si è trasformato oggi in un movimento che si chiama Mouvement Nous Toutes, Movimento Noi Tutte, in cui si parla di violenze sessiste e sessuali e non si parla di tutte le tematiche che ci possono dividere. E questo movimento sta anche all'origine dell'organizzazione, con altre associazioni ovviamente, della manifestazione del 24 novembre. Per concludere, soltanto un accenno a come i media trattano la violenza fatta alle donne in Francia, tipicamente francese, c'è una certa correttezza formale, se ne parla tantissimo della violenza, non se ne parla come in Italia, ho detto c'è questa correttezza formale che è un po' ipocrita, che permette comunque di parlarne. E e sembra ci sia un consenso della società civile contro la cultura dello stupro. Vabbè, vi ringrazio per questo spazio di parola e vi auguro una buona manifestazione a tutte, solidarietà e sorellanza internazionale. Ciao, care compagne, ciao.